Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, un santo pomeriggio Ave Maria a tutti da Don Leonardo Maria Pompei e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovane. Abbiamo cominciato la settimana scorsa, vi ricordo, il nono comandamento che adesso ci accompagnerà per qualche incontro, dopo aver terminato l'ottavo, l'introduzione al nono comandamento che abbiamo visto la volta scorsa, è stata un pochino forte. Ricorderete che abbiamo concluso con una citazione, insomma, di uno stralcio, di un articolo, di un esorcismo che citava appunto le parole del nemico a proposito di questa della piaga, diciamo così, della pornografia o delle mode invereconde. Ecco, dopo aver sentito ecco, la parola del nemico. Sarebbe bene, ecco, ascoltare adesso un attimo la parola di un amico, anzi di qualche amico, e sentiremo che cosa dicono alcuni straordinari sacerdoti vissuti in Italia lo scorso secolo. Ecco, uno è già santo, di altri due che sono morti in concetto di santità, si spera che presto sia aperto il processo di beatificazione. Si tratta di San Pio da Pietrelcina, di Don Dolindo Ruotolo e di Don Giuseppe Tomaselli, che sono tutti intervenuti appunto sulla materia delle mode, raccomandando insomma con parole anche loro un pochino forti, come era proprio dell'ambiente dei santi, insomma, che su questo argomento non ci andavano, come è noto, molto molto leggeri, appunto intervenendo sul tema delle mode e della modestia. Allora, questo perché lo scorso secolo, ahimè, è stato quello in cui questa piaga, ecco, della corruzione, del degrado dei costumi, si è proprio, come dire, diffusa in maniera purulenta, con una situazione, con un processo che a tutt'oggi sembra, umanamente parlando, non reversibile. Io più di qualche volta, per la verità, ragazzi e ragazze carissime, mi trovo dinanzi a situazioni, insomma, di questo genere, nel senso che guardando gli eventi e come adesso si sono messe le cose, salvo un intervento da parte dell'Altissimo, che certamente nella sua onnipotenza lui può sempre intervenire, fare qualcosa e cambiare poi le varie situazioni difficili che ci troviamo, dinanzi a cui ci troviamo. Sinceramente, umanamente parlando, sembra molto molto difficile tornare indietro. Ecco, io oggi, guardando tante cose che si vedono in giro, mi sembra davvero difficile, ecco, specialmente per i paesi occidentali, che su questo fronte ci possa essere non un passo indietro da parte di qualche persona sensibile, ecco, che si rende conto di tante cose e quindi sceglie liberamente, per amore del Signore, di fare qualche passo indietro. Sembra molto molto difficile, almeno a quello che si vede, poi io spero sempre di sbagliarmi, che sia verificabile una svolta sotto questo punto di vista epocale, anche perché purtroppo quando si sbarrano, quando si alzano delle barriere verso il mondo del male, difficilmente, ripeto, salvo poi gli interventi dell'Altissimo, che noi dobbiamo sempre sperare, perché dobbiamo, cristianamente parlando, sempre confidare nel fatto che la vittoria deve essere sempre di nostro Signore, e per cui il male non può mai dire l'ultima parola. Ecco, però non si sa come e non si sa quando. Sta di fatto che, guardando tante situazioni, io penso che qualunque osservatore equilibrato debba concludere queste cose. Stamattina mi è arrivato su Facebook un post assurdo, se lo trovo ve lo faccio un attimo vedere, ve ne parlo insomma esplicitamente. Praticamente che succede? Che pare che in Svezia hanno, come dire, quasi licenziato una giornalista, nonostante che fosse una pubblica giornalista molto rinomata, ecco, l'ho trovato, si chiama Siv Kristin Selleman, perché aveva addosso una croce, udite, udite, al collo, ma era un gioiello questo qui, di 1,4 cm. E questo perché alcuni spettatori, soprattutto esponenti della comunità islamica locale, hanno protestato. Quella catenina con la croce offende l'Islam. Quel simbolo non garantisce l'imparzialità del canale. Ora, voi capite, ragazzi e ragazze carissimi, no? Qui non si tratta di, cioè, indubbiamente, come dire, da un punto di vista di leggi civili, uno può anche considerare la cosiddetta libertà religiosa come un diritto civile e quindi astrattamente parlando come come vogliono chiamarla adesso, conquista della civiltà contemporanea, però voi capite che da questo fatto, che potrebbe anche essere giusto, dico sempre potrebbe perché ci sono comunque tanti punti interrogativi anche su queste cose. Da qui a passare che se uno in un paese di antica tradizione cristiana, come un paese del nord Europa, si mette una crocettina di un centimetro e quattro al collo, rischia il posto di lavoro come giornalista e deve toglierselo perché altrimenti si offendono gli islamici, perché se no viene messo a repentaglio l'imparzialità del canale, voi capite che mi sembra veramente troppo. Ecco. E la cosa che mi preoccupa è che queste cose ormai fanno parte della cultura. Come continuano ad arrivarmi anche qui in giro, anche sempre su Facebook, circolano online delle cose completamente assurde da parte, come dire, della non della cioè, dire della propaganda omosessualista sarebbe dire poco, cioè questi stanno imponendo una dittatura assoluta. Cioè che se tu non ti uniformi al loro pensiero, cioè non, sbandierano tanto la libertà di pensiero, non possiamo essere liberi di pensarla come vogliamo, perché se tu offendi dei capisaldi della cultura omosessualista, capisaldi che sono opinabili, come loro considerano opinabili e non lo sono, dei capisaldi del cattolicesimo, con la differenza che mentre il cattolicesimo oggi si può tranquillamente inginocchiare e tartassare da qualunque parte senza che nessuno dica mezza parola, se tu ti azzardi a fare una cosa di quel genere, i professori e professoresse che perdono posti di lavoro. Recentemente, dopo il putiferio Halloween, mi hanno contattato anche online insegnanti di scuola elementare, di cosiddetta scuola elementare, se non si chiama più così, scuola primaria si chiama, dicendo che Halloween fa parte, io adesso non so se questa informazione, spero che non sia corretta, ma mi dicono che fa parte dei moduli scolastici, per cui una maestra non può ignorare questo fenomeno, altrimenti viene ripresa da un punto di vista professionale. Ma dicono, siamo completamente fuori di testa anche con queste cose, no? Dopo però se uno da Natale fa il presepe, succede la fine del mondo, sono successe in giro per l'Italia questioni per scuole che hanno chiamato per esempio per Pasqua, cosiddetto precetto pasquale che si faceva una volta, un prete a fare una messa prima di Pasqua, successa la fine del mondo, è successa. Cioè, allora, certamente noi dobbiamo chiamarci fuori, però ripeto, da un punto di vista culturale, che ci possano essere inversioni di tendenze su queste cose, io penso che sia difficile. Anche perché, ripeto, molti, spero non troppi, ecco, che si fregiano del nome di cristiano cattolico, su tanti argomenti hanno un pochino le idee confuse. magari confondono i principi della massoneria e della rivoluzione francese, che sono principi comunque laici, con quelli che sono propri del cristianesimo, che si trova su livelli completamente differenti. Allora, su questa materia io penso che la situazione sia altamente analoga, nel senso che noi dobbiamo continuare a segnalare alcune questioni, a dire quello che pensa il cristianesimo, a cercare per quanto possibile di dare il nostro contributo, di fare il possibile perché le cose cambino, non facendoci però, penso, illusione. E sapendo che anche quelle sante donne che avranno il coraggio di sfuggire alle logiche non buone di questo mondo, la dovranno pagare. Quantomeno in termini di derisione, di messa al bando, di sorrisini ironici, quando tutto va bene, o quant'altro. Allora, cominciamo da San Pio da Pietrelcina. Allora, io faccio soltanto un piccolo collage perché ci sono dei fatti, insomma, virgolettati, quindi delle uscite storiche, insomma, di San Pio. Vorrei fare una piccola premessa prima di leggere San Pio, perché possono essere pericolose queste cose. San Pio era un santo, ecco, quindi poteva permettersi, avendo le stigmate addosso e dall'alto della sua santità, di intervenire anche in modo molto forte, ecco, e molto tagliente su alcuni argomenti. Nessuno, io penso, che fuori di lui possa farlo, quindi, cioè, delle espressioni forti e colorite che lui adopera, dobbiamo trattenere soltanto, come dire, la sostanza di ciò che queste affermazioni insegnano. Ecco, vi parlo, se ci dovesse essere qualche mio confratello in ascolto. Noi non possiamo utilizzare certamente questi modi. E dobbiamo anche, penso, essere un pochino attenti a discernere alcune situazioni, nel senso che dal momento che oggi i livelli di guardie si sono notevolissimamente abbassati nei confronti dei tempi di Padre Pio, ferma restando ovviamente la decenza, non possiamo, come per esempio si legge in uno dei suoi diari, me lo ricordo benissimo, nel diario di una sua figlia spirituale. Padre Pio, per esempio, non voleva assolutamente che le sue figlie spirituali, almeno Clionice e Mormorcaldi, si togliessero le calze anche d'estate. Penso, non vorrei andarmene all'inferno, non vorrei che la Santissima Trinità adesso mi fulmini seduta stante, che questa disposizione a cui lui teneva tanto sia da, come dire, storicizzare, da relativizzare, no? E oggi sono anche come dire, le suore anche di ordini austeri, insomma, no? Che certamente non hanno la minigonna, ma che non portano le calze, no? Quindi ci sono alcune cose che sono dipendenti, diciamo così, in parte anche dai fattori culturali, no? Ovviamente, però, capite, tra questo e quello che si vede oggi, insomma, cioè, dobbiamo comunque trattenere e ritenere da questi santi l'insegnamento che non si può esagerare e non si può comunque andare al di sotto di una soglia minima di decenza. E i toni forti dobbiamo semplicemente decodificarli, non riprodurli tali e quali. Né preti né laici o laiche, se si vedesse qualche povera sorella che agisse in questo modo, perché bisogna essere comunque molto molto delicati nel far rilevare tante cose, ricordando che oggi i figli di questo tempo non sanno quello che fanno, non si rendono conto di tante situazioni, no? Un conto quando uno andava in giro nudo ai tempi di Padre Pio, che la maggioranza delle persone non andava, almeno in chiesa, come dire, così procace, un conto è oggi dove quelli che si vestono decentemente si contano. Non dico sulle punte delle dita, voglio sperare che non sia così, ma sicuramente non sono la maggioranza, ecco, quindi bisogna certamente avere principi chiari, però essere molto attenti e pieni di compassione anche e di misericordia nei toni e nei modi. Ecco, detto questo, io chiaramente le citazioni le faccio così come sono uscite, dalla bocca dei diretti interessati. Ecco, ripeto però, perché è già successo che ci sono stati magari qualche problema, non mettiamoci nei panni dei santi senza esserlo. Ecco, quindi riteniamo l'essenza di questi insegnamenti senza pretendersi di mettersi a fare i Padre Pio o i Don Dolindo o i Don Giuseppe Tomaselli della situazione. Quindi cominciamo con Padre Pio. Una volta fu detto al santo: Padre, lei sta esagerando con le donne, le manda via anche con la gonna fino alle ginocchia. Niente, alle ginocchia, niente confessione per loro. Fino alle ginocchia, rispose Padre Pio, vedrete, vedrete, si spoglieranno anche per la strada. Ecco, quindi già questo fa capire un po' qualcosa, no? Padre Pio non è che mandava via le donne con le gonne fino alle ginocchia perché non si possono portare fino alle ginocchia, ma perché si stava già, come dire, partendo quel processo che gradualmente, perché questa è la tecnica anche dei nostri nemici, avrebbe portato ad andare ben peggio, d'accordo? Quindi al momento che lui aveva il dono della preveggenza e vedeva dove tutto questo andava a portare, interveniva con ferma ed estrema severità, anche lì dove in teoria la soglia non sarebbe, come dire, di guardia, no? La prima cosa, una volta le suore di Foggia gli condussero delle giovinette del loro collegio che avevano la gonna troppo corta. Le suore le fecero mettere in ginocchio perché il padre non le vedesse. Padre Pio passò oltre senza salutarne nessuno e prima di uscire voltandosi disse: Non vi vergognate, andate a vestirvi. Ecco, adesso. Il problema è che quando capita un santo alla Padre Pio, ecco, io su questo scherzo sempre anche con scherzo santamente anche con i fedeli, abbiamo la percezione di trovarci un pochino di fronte al Padre Eterno perché Padre Pio aveva dei doni straordinari, quindi non poteva essere ingannato. Ecco, attenzione ragazzi e ragazze, vi raccomando sempre, questa è una delle cose a cui tanto tengo e che cerco di insegnare ai miei fedeli. Noi dobbiamo imparare a vivere davanti al Padre Eterno, non davanti al confessore, davanti al parroco, davanti al Don X della situazione. Quindi, la cosa che queste sapevano di che stavano facendo una cosa che non andava bene, e avevano paura di farsi vedere da Padre Pio. Il Signore, dando i suoi poteri a Padre Pio, gli era fatto vedere lo stesso, ecco, ma l'insegnamento è sta attento che tu quando succedono queste cose non devi preoccuparti di Padre Pio, ecco, devi preoccuparti del Padre Eterno che non approva quello che stai facendo. Quindi se il Padre Eterno non approva quello che stai facendo, anche se trovi non Padre Pio, io scherzando chiamo i prototipi, come dire, di sacerdoti non proprio ligi osservanti, era una battuta che sentì da altre persone, insomma, secondo me fa sorridere e sdrammatizza anche un po' la gravità di un problema. Io li chiami Don Brodino, quindi se tu non trovi Padre Pio e trovi Don Brodino che non ti dice niente, che ti dice anzi che va tutto bene, guarda che quella cosa non va bene lo stesso davanti al Padre Eterno. Quindi anche se l'hai fatta franca, che non ti sei presa la sgridata di Padre Pio, te la prenderai da parte del Padre Eterno. Ecco, e la sgridata da parte del Padre Eterno è ben più grave di quella da parte di un suo ministro, no? Voi pensate, è una donna che portava una maglia con le maniche corte fino all'avambraccio, disse, sentite insomma espressioni un pochino, veramente a noi ci sembrano al di fuori del limite, no? Ti segherei le braccia perché soffriresti di meno di quello che soffrirai in purgatorio, le carni nude bruceranno. E la stessa cosa, quando si rifiutò di confessare a un uomo che gli mandò a chiedere da un suo amico il perché, il padre gli rispose: digli che o si taglia le braccia o si allunga le maniche della camicia. Allora, sono esempi questi qui, ripeto, estremi. Ecco, magari qualcuno che li ascolta, può anche, come dire, irritarsi, urtarsi e dire: ma non si può andare a dire queste cose che sono delle esagerazioni. Però ricordino le premesse che ho fatto. Ecco. Bisogna anche secondo me oggi un pochino distinguere l'abbigliamento in chiesa e l'abbigliamento fuori della chiesa, non intendendo tante cose in termini, come dire, di di si può o non si può, ma di opportunità o non opportunità, nel senso che dentro la chiesa se uno ha oggi, ecco, le mezze maniche, purché abbia abiti, come dire, sobri e tranquilli, possono essere tollerate, certamente è preferibile che nella chiesa si abbia, in chiesa si abbia un abbigliamento il più modesto possibile, per cui se uno riuscisse a sopportare un pochino di caldo in più, evitando insomma anche questo che sicuramente fuori è lecito, sicuramente sarebbe meglio, no? Come si conta un altro problema legato, altra questione che oggi chi lo sa che cosa succede, se è bene che le donne in chiesa stiano a capo velato o non a capo velato. Ecco, la disposizione che era obbligatoria per un decreto, ecco, del successore di San Pietro, che è Papa Sallino, è fondata nella prima lettera ai Corinzi, è caduta in desuetudine, per cui la forza vincolante di legge non ce l'ha più. Ecco, però nessuno l'ha mai abrogata comunque questa norma, e quindi fermo restando che oggi è una libera scelta, d'accordo, di una donna che può fare o può non fare, io personalmente, già parlato in altre circostanze di queste cose, anche alla luce di alcuni dati che vengono da alcune rivelazioni private, opinabili certamente, di apparizioni mariane, è sicuramente cosa gradita al cielo una donna che faccia questa cosa, no? Quindi dobbiamo anche imparare noi, mano a mano che progrediamo, ecco, nella via del Signore, a discernere non soltanto il bene dal male, ecco come dovrebbero aiutare a fare le catechesi sui 10 comandamenti, perché i comandamenti segnano un confine di demarcazione, no? Quindi dentro il comandamento stai nel bene, fuori del comandamento stai non nel bene, nel meno bene. E invece, dentro il bene esiste il migliore. Esiste il molto migliore e esiste il perfetto, insomma, no? L'ottimo. Ecco, quindi dobbiamo non soltanto ragionare in termini di bene e di male, ecco, ma anche in termini di migliore o di ecco. D'altronde, quando Gesù dice, quando San Pio dice ti segherai le braccia perché soffriresti di meno di quello che soffrirai in purgatorio, ecco, vuol dire che ha ammesso, ecco, che si tratti, come dire, di un peccato in senso stretto, non si tratta comunque di un peccato grave, perché per un peccato grave non, le carni non bruciano in purgatorio, bruciano all'inferno, capite? Ecco, quindi sicuramente, e sapete che purgatorio, in purgatorio si scontrano non soltanto i peccati veniali, attenzione, ma anche le imperfezioni. Un'imperfezione, che non è formalmente un peccato, ma è una mancanza alla perfezione di una virtù, questo dobbiamo ricordarlo, siamo nel mese di novembre, richiedono purificazione in purgatorio, questo è certo questo qui, d'accordo? Perché in paradiso entra soltanto ciò che è perfetto, ecco. Quindi certamente tu dici, vabbè, beato chi ci arriva in purgatorio, io sono d'accordissimo con voi, insomma, io ci metterei 30 firme per arrivare almeno in purgatorio, ecco, però, vi ripeto, dico queste cose per evitare che ci siano, insomma, salti sulle sedie, insomma, da parte di chi ascolta queste cose, no? E neanche inopportune però ridicolizzazioni, ecco, di giganti del calibro di quelli che stiamo ascoltando, perché non, ecco. Ancora, un'altra uscita estrema di Padre Pio riguarda i doveri, questi sacrosanti, e mi danno la possibilità poi di aprire un'altra parentesi, dei genitori circa le libertà, tra virgolette, che concedono ai figli. Perché, scusate, quando una giovanotta di 12-13 anni va in giro in un certo modo, certamente dobbiamo incolpare, come sempre si fa, la società e le mode che ci stanno, no? Ecco, però quei vestiti, scusate, chi gliela comprati? Chi è che glieli fa mettere? Non penso che una bambina, una ragazza di 12-13 anni abbia la possibilità di andarsi a comprare vestiti da solo, no? E a me se non concesso che ce li abbia, tu vivi a casa mia e se una cosa va oltre, non te la metti. Cioè, te lo spiego perché. l'educazione, l'abbiamo visto parlando, adesso non voglio rifare i 10 comandamenti, parlando del quarto comandamento, non è un'imposizione arida e fredda di regole cogenti e arbitrarie e dittatorialmente imposte. Te lo spiego perché. Dopo che te l'ho spiegato, però, dal momento che tu sei sotto la mia autorità, perché io sono tuo padre o sono tua madre, dopo che te l'ho spiegato, rispiegato, rispiegato, rispiegato, ti chiedo anche, fino a quando sei sotto la mia autorità, di accogliere questa indicazione anche qualora tu fossi non d'accordo. Il Santo Curato d'Ars, in alcune omelie, abbiamo già citato, parlando dell'ottavo comandamento, era terribile, non con i giovani, ma con i genitori, dicendo Dio chiederà conto ai genitori, e io sono d'accordo con questo, di tutti i peccati, piccoli o grandi, che i ragazzi hanno fatto a causa delle licenze inopportune, che non sono amore ma sono debolezza, concesse loro dai genitori. Quindi l'episodio, veniamo, e così prima della pausa concludiamo la parentesi su Padre Pio, è questa, no? Dice, una mattina un bambino di 11 anni si reca da Padre Pio e gli dice, papà padre, mio padre vi ricorda quella grazia, non dimenticate. Gli risponde, chiama tuo padre, fammelo venire. Papà ti vuole Padre Pio. Il papà si avvicina e Padre Pio gli grida. Anche qui, non rifate queste cose, eh? Maiale, non ti vergogni di far vestire tuo figlio in quel modo. Calzoncini corti, e se lo vedesse qualche ragazzina, ricordati che noi pagheremmo anche i peccati di pensiero fatti fare da altri. Maiale che sei. Quindi attenzione a non pensare che dice, ma i ragazzini e le cose. Non è vero. Io vi parlo per esperienza da sacerdote. Ecco. Perché un ragazzino o una ragazzina, se vengono provocati, possono concepire pensieri di questo genere. Non aggiungo altro perché non posso, in quanto prete, ma vi assicuro che questa è una cosa che succede. Quindi non siamo troppo leggeri, perché con una bambina, perché se non pensate per il fatto che abbia 8 anni, debba andare in giro col gonnellino piccolo, piccolo, piccolo, ecco. Non serve, ecco, no, in spiaggia gli mettiamo il costume, fuori della spiaggia, anche se ovviamente una bambina non si rende conto di quello che fa, e anche se ovviamente come dire, in linea ordinaria non si tratta insomma di attribuire chissà quale valenza insomma, a questo comportamento, e si spera insomma, però di questi tempi, capite? Anche con tutto quello che gira, non è detto che tutti quelli che guardano questa cosa la guardino con occhi perfettamente puliti, no? Quindi perché fare questa cosa? Non ha senso e quindi è preferibile agire diversamente. Siamo giunti alle 5, ecco per cui farei un attimo una piccola pausa per recitare l'Ave Maria in concomitanza con l'ora dell'apparizione della Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, scusate ragazzi, riprendiamo. Allora, un'altra cosa prima di passare ad altro è che la frase di Padre Pio è da prendere in considerazione. Pagheremo anche i peccati di pensiero fatti fare da altri. Ecco, questo riprende in parte quello che abbiamo visto la volta scorsa dell'esorcismo. Una donna vestita, come dire, immodestamente provoca sguardi non onesti da parte di qualcuno. Ed è quindi moralmente responsabile dei peccati impuri fatti da quel qualcuno, perché se non avesse provocato, attenzione a quello che sto dicendo, non sto dicendo che questo legittima, ne, non sto dicendo niente, ecco, dato i problemi grandi che sono successi a suo tempo, ecco, sto dicendo semplicemente che quella rappresenta un'occasione di peccato e che moralmente parlando, se lo dice Padre Pio, pagheremo anche i peccati di pensiero fatti fare da altri. Quindi non bisogna, questo non vuol dire che se qualcuno fa qualche peccato non soltanto di pensiero o anche di azione, o faccia bene oppure non debba pagarla gravemente davanti a Dio, e se dovesse fare qualche reato gravemente anche davanti agli uomini. Ecco, quindi chiusa parentesi. Padre Pio, tuttavia, questo era praticamente solo in questa battaglia. Tant'è che il suo figlio spirituale scrisse: la voce di protesta contro la moto si leva solo dalla bocca di Padre Pio. A Roma tutti i sacerdoti chiudono gli occhi e passano avanti. Al che il padre rispondeva ironicamente: il pesce puzza dalla testa. Ecco, allora, e qui facciamo l'ultima considerazione. Cioè, il fatto che la verità debba essere detta con carità non deve farci dimenticare però che la verità deve essere detta. Non è carità se io, per evitare di offendere, come può capitare, da un punto di vista oggettivo, certamente è una mortificazione, una persona che è vestita in maniera non corretta, io faccio finta di non vederla e non dico niente. Questo non si può fare, un prete non può fare questo qui. Salvo incorrere in peccato grave di omissione. Ecco. Quindi non deve né travisare il concetto della carità, perché la carità, per essere vera al Signore, deve essere vera, quindi deve sempre rimanere dentro i confini della verità. Quindi l'unica cosa che si deve fare, non solo che si può, ma che si deve fare, è cercare di dire la verità con carità. Questo sì, ma la verità bisogna dirla, specialmente su queste materie. Quindi non si può ometterla o tacere. A volte, ahimè, gioca non poco il fattore paura. Ecco. Dice, poi quella cambia parrocchia. Allora, però capite che con questo discorso noi ci andiamo a giocare tutto il cristianesimo. Perché poi quella cambia parrocchia, poi quella cambia confessore, poi quella cambia religione. Quindi anche a livello delle alte sfere, quando un pontefice deve dire la verità, e la deve dire anche oggi, d'accordo? Perché la doverosa carità e il doveroso spirito di accoglienza verso il mondo contemporaneo non può mai far fare dei passi indietro dal punto di vista della fede e della morale, come nessuno dei papi fino ad oggi si è mai azzardato a fare, insomma, no? Poraccio, come si chiama? Benedetto XVI, ricordate quando, mi pare che era la visita in Africa, che disse che il preservativo non è la soluzione ai problemi dell'AIDS dell'Africa, perché non può esserlo, perché il preservativo è proibito dalla legge di Dio. E noi sappiamo per certo che il peccato non può mai, mai, mai essere giustificato, mai, e dal peccato non può mai venire nulla di bene, anche se per accidenza, direbbe San Tommaso d'Aquino, quindi contingentemente, può tamponare la diffusione di un problema. Successe la fine del mondo, successe la fine del mondo. Così come quando Giovanni Paolo II scrisse alcune encicliche. Queste cose, cioè, mi danno tanto fastidio. Giovanni Paolo II, quando scrisse La verità di Splendor, molte persone non sanno neanche che cosa sia, fu criticato quando ribadì i principi della morale, che esistono anche nel XX secolo i peccati morali, veniali e i peccati mortali. L'ha scritto. E che non è che il peccato te lo senti tu. Se io mi sento di aver offeso Dio e di aver perso la sua amicizia, ho fatto peccato mortale. Se io non mi sento di aver fatto una cosa grave agli occhi di Dio, peccato mortale non lo faccio mai. Come dire, come vorrebbero, sto semplificando chiaramente, stiamo in radio, alcuni teologi moralisti che hanno propagato la cosiddetta teoria dell'opzione fondamentale, no? Una grossa stupidaggine dal punto di vista morale, che però ha dilagato, insomma, nelle scuole negli anni 90. E anche un po' prima, no? O quando ha scritto l'Evangelium Vitae, dichiarando che l'aborto era un gravissimo peccato contro il quinto comandamento, che chi lo commette è scomunicato. O quando è intervenuto sulla questione dell'ordinazione delle donne, dicendo che la Chiesa non ha il potere di farlo, o quando è intervenuto sul discorso del celibato dei sacerdoti. Stessa cosa vale per un papa più liberale, a quanto dice la storia, rispetto a Giovanni Paolo II, che era Paolo VI, che per quanto liberale potesse essere su alcune questioni, come è ovvio che sia, e come tutti i papi, compreso l'attuale papa, certamente farà. Perché non può fare altro e non può e non deve fare altro, quindi è inutile che si facciano troppe illusioni in media. Ecco. Su alcuni capisaldi della fede e della morale non ci si può muovere. Su delle questioni opinabili, anche un papa si può muovere, ovviamente compiendo delle cose opinabili, anche se papa. Opinabili nel senso che sono scelte che possono essere condivise o non condivise, perché non impegnano, come dire, la sua figura di rappresentante di Cristo in terra, di successore di Pietro, chiamato a confermare nella fede gli apostoli. Quindi garbatamente e filialmente si possono, come dire, criticare una parola un po' troppo che non mi piace, diciamo, applicato ad un intervento, però si possono, se ne può discutere, si può dire con tutto il rispetto per il Sommo Pontefice, forse questa cosa non mi sembra opportuna, però sono potete la decisa, è lecita e io comunque la faccio. Ecco, quindi chiusa queste serie di parentesi, quindi attenzione a non tacere la verità o per un malinteso senso di carità, oppure, peggio ancora, per paura di perdere qualcuno. È perché noi non possiamo, per la paura di perdere le pecore, fare un'altra religione, oppure cominciare a dire che quello che era peccato non è più peccato. Non possiamo. Possiamo prendere per mano le persone, possiamo e dobbiamo prenderle per mano da buoni pastori e aiutarle a interiorizzare il senso del peccato e a cominciare una vita in grazia di Dio. Punto. Di questo non può, cioè, nessuno di noi può sostituirsi al Padre Eterno. Non abbiamo visto i comandamenti, sono 10, siamo arrivati al nono. Il Papa mica può dire da oggi in poi non esiste più l'ottavo comandamento, eh. Assolutamente. Se ci sono cose di questo genere, ci sarebbe da dubitare che sia il Papa. Cioè, che non si sia impazzito, insomma, sapete che ci sono i casi di scuola che si studiano durante i corsi, l'ipotesi del Papa matto, l'ipotesi del Papa eretico, insomma, che sono tutte quante cose che non sono mai successe, no? Sono tutte quante, come dire, questioni accademiche. Ecco, perché dobbiamo assolutamente sperare e credere che Dio non prometta una cosa di questo genere. Però, se supponiamo per assurdo che un papa dicesse l'ottavo comandamento non esiste più, quindi si possono dire le bugie, le sue parole avrebbero valore zero, d'accordo? Perché in quel momento il papa, non interpretando quello che è la volontà di Dio certa, non opinabile, non avrebbe, non conserverebbe il ruolo di interprete di essa. Scusatemi, è chiusa di nuovo questa parentesi, andiamo avanti, no? Don Dolindo Ruotolo, ecco, un sacerdote molto chiaro all'ambiente che noi conosciamo, insomma, anche alle suore della Radio Buon Consiglio, da cui stiamo trasmettendo, diciamo all'Istituto dei Francescani dell'Immacolata, anche lui ebbe ad alzare la voce. In termini un pochino differenti, quindi cercando un po' di suscitare, ecco, con una carità al tempo stesso delicata, ma anche mirata, una conversione, ecco, dentro i cuori di alcune donne che più o meno coscientemente si abbandonano a certi costumi un po' troppo libertini. O addirittura lascivi. Leggo testualmente i suoi scritti. Donna, tu sei creatura di Dio, creatura nobilissima, anima unita al corpo per glorificare Dio e non lo zimbello o il trastullo di uomini corrotti. Ogni moda, ogni ornamento immodesto, tu li usi per mostrare la bellezza artificiale che riesci a imbastire col trucco. E così, invece di glorificare Dio, lo offendi con le tue colpe. Sei forse sulla terra per avvilirti così? Pensa che il giudizio di Dio è prossimo e che mentre al corpo si apre la tomba, all'anima deve aprirsi il cielo. Quando Quando pensate al vostro abbigliamento, scrisse Papa Pio XI, quindi un papa, pensate anche, o donne, a come vi ridurrà la morte. Dopo il peccato originale, ecco un punto, adesso dirò due parole di commento, che non bisogna mai dimenticare. Lo sguardo dell'uomo sarebbe stato sconvolto dalla visione del corpo, per cui Dio ha voluto che il corpo fosse coperto. Tu dunque ti devi vestire per nascondere la carne, non per mostrarla, e ti devi vestire che sei di Dio e che sei tempio dello Spirito di Dio. Dio veste la sua creatura, Satana la spoglia, perché essendo spirito immondo prova gioia in tutto ciò che è degradante. Allora, ragazzi e ragazze carissime, una cosa che non dobbiamo mai dimenticare: c'è il peccato originale, c'è il peccato originale, c'è il peccato originale. Quindi, vi ricordate il racconto della Genesi? Adamo e Eva erano nudi prima del peccato originale, senza provarne imbarazzo o concupiscenza. Dopo il peccato originale si coprono, perché comunque siano andate le cose col peccato originale, credo di averne fatto qualche cenno in qualche altra puntata, adesso non è il caso di riprenderlo. Una cosa è certa, che dopo il peccato originale c'è una cosa che si chiama concupiscenza, che riguarda tutti, riguarda anche i santi, riguarda anche i consacrati, perché altre volte ho avuto modo di dire, San Francesco due volte è stato tentato fortemente su questa materia, probabilmente con peccati di pensiero, ma una volta si è buttato in mezzo alle spine, e alla Porziuncola ancora c'è, il roveto è diventato roseto, e un'altra volta si è rotolato nudo in mezzo alla neve, era San Francesco. Dalle mie parti, qui vicino a Subiaco, episodio analogo è successo a San Benedetto. E San Benedetto si è tranquillamente buttato in mezzo ai rovi, anche lui, sotto le spire di una tentazione impura. San Paolo, non mi ricordo se era la seconda lettera ai Corinzi, credo di sì, non ci metterei la mano sul fuoco, comunque parla di una spina nella carne, un messo di Satana incaricato di schiaffeggiarlo, e tutti gli interpreti cattolici, almeno nei padri, dicevano che il grande San Paolo era stato umiliato e mortificato da una tentazione impura da cui non riusciva a liberarsi. Allora, lo capite questo qui? Nessuno ne è esente. Anche altre, mi pare che la volta scorsa ho accennato qualcosa, no? Io sono un sacerdote, per esempio, no? Sono consacrato, voglio bene al Signore. Ho scelto di consacrare la vita, non mi passa neanche per l'anticamera dal cervello, tante situazioni, ma io so di essere un figlio di Adamo e di Eva. Cioè, per cui io non posso certamente andare a vedere cose invereconde, non lo posso fare, perché se dovessi vedere una cosa invereconda, purtroppo la mia concupiscenza, che non è spenta, è semplicemente sotto il dominio della grazia, ma si riaccende subito, non c'è niente da fare. Così come bisogna essere sempre molto prudenti a tutti i livelli. Come dire, negli scambi e nei confronti con le persone dell'altro sesso, perché basta un niente, anche se tu sei nelle intenzioni innocente, anche se tu sei negli sguardi innocenti, anche io soltanto pensarle alcune cose, cioè per me, come dicono gli autori spirituali, le donne più grandi sono madri, le donne mie coetanee sono sorelle, e le donne più figlie sono le donne più piccole sono figlie. A livello cosciente, il solo pensiero di commettere un atto impuro mi fa inorridire. Però io capisco che se ci fossero, come dire, dei contatti imprudenti, pur non volendo niente del genere, mi si risveglierebbe la concupiscenza, per forza. E certamente non vado a fare le prove. Di questo dobbiamo essere consapevoli, fratelli e sorelle carissimi, carissimi ragazzi e ragazze, è una piaga, è una miseria. Voi sapeste quante volte io mi abbraccerei tutti, capite bene quello che sto dicendo, mi abbraccerei tutti perché gli voglio sacerdotalmente bene, e mi dispiace non poterlo fare in questo mondo, ma non lo posso fare, purtroppo, perché c'è questa piaga sociale, ecco, che ce la portiamo finché siamo morti, si chiamano concupiscenze. Che è figlia del peccato originale, questa è una verità di fede che noi dobbiamo sempre tenere presente. E non possiamo agire come se il peccato originale non ci fosse, perché invece poi c'è. Quindi certamente cioè, ci sono poi varie forme, diciamo così, di reazione, no? Ci sono delle norme ascetiche che sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto rigorose, nel senso che pongono limiti molto in avanti. Non è detto che debbano essere posti così tanto in avanti, no? Queste poi sono scelte che ciascuno deve fare. Ah, certamente non si possono comunque sbarrare dei limiti troppo indietro. Certamente. Capite? Conseguentemente, dato che c'è questa situazione, questa non va provocata, come dire, non va sfrugugliata, dicono in qualche zona del sud Italia. Perché se la sfrugugli, quella subito si riaccende. Quindi, per questo che Dio ha voluto che il corpo fosse coperto dopo il peccato originale, perché c'è questo problema. C'è questo problema. Riprendo la lettura. Una donna immodesta è per le strade un trofeo che il diavolo sbandiera contro la redenzione. Una donna scandalosa non obbedisce a Dio, al Papa e ai sacerdoti, ma solo a Satana e ai vili manovratori della moda, pronta a portare d'estate la pelliccia e ad andare scollacciata con la gonna corta anche d'inverno, in nome della moda. Attenzione che donna scandalosa, il Vangelo di ieri parlava dello scandalo, no? Abbiamo già parlato a suo tempo. Lo scandalo è un peccato pubblico, quindi è un peccato commesso sotto gli occhi di tutti e che induce in peccato anche gli altri. Su questa materia lo è. E purtroppo quando si mettono in giro certe cose, no? Io per esempio ho conosciuto quell'anima bella e benedetta di Claudia Coll. Mia carissima, cioè ce l'ho nel cuore, no? Tutti quanti sappiamo purtroppo quello che questa figlia purtroppo un tempo fece. Io ho un video con una piccola intervista a lei dove parla della purezza. Sul mio canale YouTube ho dovuto, come dire, non consentire commenti liberi proprio a causa principalmente di questo video suo. Perché mi arrivavano certi commenti di una volgarità estrema e di una cattiveria estrema, perché purtroppo in giro su YouTube, e non solo su YouTube, ci sono tutti quanti gli spezzoni di alcuni programmi non propagandati che sta povera figlia ha fatto quando, e che gli saranno sempre sbattuti in faccia purtroppo quando sta su questa terra, perché Dio perdona, ma gli uomini no, e il demonio te li sbatte tutte quante in faccia queste cose qui. Ho dovuto bloccare i commenti. Perché non permetto chiaramente io che sul mio canale YouTube vengano scritte quelle porcherie, neanche sulla bacheca di Facebook permetto queste cose, perché chi vuole entrare in contatto con il mio mondo deve tenere presente che è il mondo di un sacerdote e che tutto che la roba che gira intorno a me, anche quella multimediale, è consacrata alla Madonna. Quindi se vuoi dire le tue parolacce, le tue volgarità, le vai a dire altrove. Quindi su questo non c'è la minima possibilità di transizione, non mi importa che questo, cioè non mi importa nulla, non è che sentire alcune cose. Ecco, però, che vogliamo fare? I film quella purtroppo li ha girati, che fa? Cioè, oggi non è neanche dire, non è oggi il mondo del web, cercate di capire ragazzi in che cosa stiamo messi, eh. No, cioè, una volta tu facevi un film, con le pellicole, d'accordo? Quindi se per assurdo tu volevi fare una botta da matto, andavi, prendevi le pellicole, gli davi fuoco, è bello che è finito il film. Oggi non è così. Cioè, una cosa del genere sta in giro tra YouTube e company, sta in giro dappertutto, per cui te la risbatteranno sempre davanti in qualche forma, in qualche modo. Quindi date attenzione, per questo che dico anche ai ragazzini, stare attenti all'uso che fate di Facebook, a fare i filmini, le cose, a metterli in giro, perché tu una volta metti una cosa online, punto finito, quella cosa starà in pubblico dominio a tempo indeterminato. Anche quando un giorno potresti pentirtene, no? Quindi attenzione ragazzi. Va bene, continua la citazione di Don Dolindo: non dire, o povera creatura di Dio, che non puoi portare gonne sufficientemente lunghe perché ti danno fastidio. Perché se fosse la moda in portele, c'è stato un periodo qualche estate fa che andavano di moda le gonne lunghe, perché ogni tanto la moda ha i suoi scherzi, tutte con le gonne lunghe. Non faceva più caldo, non davano più fastidio, no? Se fosse in portele la moda, vedete la sapienza dei santi, non esiteresti a farlo. Ricorda che la moda immodesta ti rende praticamente la donna di tutti. E gli sguardi avidi degli uomini ti degradano tutte le volte che si posano su di te con desideri impuri. E così tu diventi come la donna di strada, offrendoti per tua colpa allo sguardo torbidi di uomini viziosi, e torni a casa carica di colpa e di iniquità. Io vi ripeto, l'ho detto a qualche fanciulla, dico: ma tu sei contenta che un giovanotto ti guardi? E Dio non voglia poi commettere atti impuri pensando a quello che ha guardato su di te. Cioè, sei contento di servire come oggetto becero, ecco, di fantasie balorde e di sfogo degli istinti di un maschietto? Ti piace questa? Cioè, è questo quello che tu desideri? È questo il modo con cui tu nobiliti il tuo essere donna, la tua femminilità? Cioè, tu sei nata per questo? Ti piace che succeda questo? Perché non credo che una ragazzina debba se ti piace una cosa di questo genere, oggi non si può, capito? Bisogna rispettare tutti quanti, quindi certamente io rispetto il tuo libero arbitrio, però mi permetto di dire, se ti piace una cosa di questo genere, fai un po' di preghiera, insomma, fai un po' di introspezione e cerca di chiederti perché ti piace una cosa di questo genere, oppure se è bene che ti piaccia una cosa di questo genere, no? Allora, continua poi. Ma perché qualcuno dice: ma io so caldo, dice, soffro molto il caldo, ho bisogno di andare vestita leggera, ho bisogno del fresco. Allora dice: ma questo è il ragionamento, facciamo così, andiamo in giro come i pigmei dell'Africa. Dice: potresti ridurti come gli Zulu dell'Africa, credi giustificata. Non so chi ha visto di voi Apocalipto, un film terribile, brutto quanto la fame di Mel Gibson, e lì ci stanno le tribù primitive che andavano in giro nudi, d'accordo? Come. Allora, andiamo tutti in giro così. Che discorsi sono? Il caldo c'è, però il caldo lo sopportiamo. Certamente non andiamo in giro col cappotto d'estate, ci alleggeriamo, ma non fino al punto, insomma, tale di dover scambiare la spiaggia con la strada, no? Continua, sappi che quando ti vesti in modo immodesto e rinnovi gli obbrobri che ridussero Gesù alla sua tremenda nudità piegata. Avrai il coraggio. Gesù è stato spogliato nudo ed è stato flagellato a sangue, dicono tutti gli interpreti, tutti, per espiare i peccati impuri e i peccati di nudità. Perché Gesù, quando l'hanno spogliato, essendo un'anima delicata, si vergognava a farsi vedere nudo. Avrai tu il coraggio di rinnovargli nel tuo corpo l'obbrobrio e la sofferenza della nudità? Copri il tuo corpo, rivestiti di purezza e lenirai le piaghe di Gesù. Donagli, in unione alle sue sofferenze, il sacrificio di sopportare un po' di caldo e la penitenza di una rinuncia. Fallo per amore e collabora con lui alla salvezza delle anime, per le quali ha versato il suo sangue, cercando almeno di non scandalizzarle. L'ultimo testimone, sì, ce la dovremmo fare a leggere qualcosa, magari senza troppi commenti, o al limite lo riprendiamo dalla prossima puntata, è Don Giuseppe Tomaselli, salesiano ed esorcista. Ha scritto uno splendido opuscoletto, Moda femminile, libro da leggere come tutti gli aurei opuscoletti di Don Giuseppe Tomaselli, quindi libretti che se uno li guarda dall'esterno sembrerebbero non dargli una lira, ma gravidi di alti e profondi contenuti. Purtroppo difficilmente trovabili, perché non si trovano in commercio, e sono distribuiti da qualche volontario in giro in Italia, quindi chi li desiderasse deve cercarli online, però sono da raccomandare tutti, dal primo all'ultimo, quelli che ha scritto questo santo sacerdote. Scrive: io Gesù trattai con dolcezza la donna samaritana e toccai il cuore a Maria Maddalena, quindi due peccatrici, perché la donna samaritana, glielo dice lui, aveva cinque mariti, d'accordo? Quindi era una che ha avuto costui abbastanza facile. Maria di Magdala, altro che cinque mariti. Ecco, Maria di Magdala era una sorta, molto probabilmente, di Claudia Cole. Poverina, le voglio tanto bene a Claudia, dovesse sentire questa cosa. Ecco, e quindi le auguro di diventare come Maria di Magdala dopo la conversione, una delle più grandi sante della storia della Chiesa, e già sta sulla buona strada. E Quindi, ma Maria di Magdala ne ha fatte veramente tante, insomma, no? Quindi scandalizzando a destra e a sinistra. Però un giorno, continua Don Giuseppe, pronunziai queste parole di fuoco: guai a chi scandalizza il Vangelo di ieri, anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. Ora, chi pronuncia queste parole è Dio. Non è un qua qua qua. Il giudice supremo dell'umanità che dovrà pronunziare la sentenza per ogni anima, paradiso o inferno. C'è il Vangelo, ragazzi e ragazze carissime. Ho detto che noi dobbiamo imparare a relazionarci non con Padre Pio, né con Don Dolindo, né con Don Giuseppe, né con Don Leonardo, né con Don Nicola, né con Don Francesco, né con Don Genoveffo. La vostra anima e della vostra vita dovrete rendere conto al Padre Eterno, ecco, non a nessuna creatura. Quindi, o donna che segui la moda, ricordati che tutti gli sguardi dati a te con malizia, in casa o fuori, sono peccati che si commettono imputabili più di tutti a te, che ne sei la causa volontaria. Vedete come si fa. Ragazzi e ragazze, perdonatemi se apro un'ultima parentesi, a capire quando una cosa appartiene al corpus dottrinale della Chiesa, nel senso che c'è una convergenza, cioè quando diversi autori, santi di diverse epoche, diversi periodi, su uno stesso argomento tengono la stessa posizione, ecco che cos'era la genuina essenza della tradizione, che oggi è un termine anche questo. Da alcuni gruppi estremisti abbastanza bistrattato, tradizione vuol dire che una cosa si ripete costantemente nel tempo e che viene osservata da tutti i santi. E quindi la dobbiamo assolutamente ritenere attendibile e non discostarci dalla regola. A meno che non abbiamo la presunzione di essere io più santo di tutti quanti i santi di 20 secoli messi insieme. Presunzione che oggi purtroppo, ahimè, qualche volta qualche sentore se ne sente in giro, ammantata poi sotto false parvenze di grande umiltà, perché, vabbè, comunque. Un giorno, proseguo la citazione, e poi penso che dovremo mettere punto, riprendiamo martedì prossimo, quando la morte ti strapperà al mondo e mi comparirai dinanzi per essere giudicata, vedrai le colpe commesse dagli uomini a vederti in abito indecenti e tu stessa ne resterai inorridita. Quale scusa presenterai a me? Guai a te, o donna, per i tuoi scandali. Inutilmente i miei sacerdoti alzano la voce ed espongono i sacri avvisi nel tempio. Dalle mie parti stanno i sacri avvisi, eh? Ecco, spero che ci siano dovunque. Quindi ci fermiamo qui, ecco, col capitolo degli scandali, da cui la prossima volta riprenderemo. Vi saluto perché ho visto che il tempo è trascorso e vi do appuntamento alla prossima settimana. Mando su tutti la mia benedizione. Ave Maria.